dieta da ordinare è facile, ma da fare poi è un casino, è un casino la dieta. E poi ti fai la crisi la stessa e ti mangi anche il frigorifero. Ma sì, non so la dieta, io mangio, ma però cammino parecchio. Allora io se mangio poco la notte non dormo, mi devo alzare a mangiarmi qualcosa, se no non ce la faccio. È una cosa che tu non puoi capire, se non sei diabetico non la capisci. Io ti capisco, ho mio padre diabetico. Ho capito, ma tu non sei diabetico. Sì, ma che a me viene lo sbrano ogni tanto. Comunque c'è il problema che il diabete ti porta a farti venire fame. E se non sei diabetico non lo sai. Tira avanti, dai, che oggi ho bisticciato di brutto col diabetologo al telefono. Mia mamma ce l'ha, ma te l'ho detto, il giorno 7 mi pare, c'ha il 20... come si chiama? Il 25 ai prelievi lì a Palazzo Rosa e poi il giorno 7 nel Bari lì a Rizzetto. Chissà cosa ne dice, quanto ne dice il dottor Carbone. Anche il mio si è trasferito a Rizzetto, non mi ha detto nulla, sono andato dove andavo sempre perché ci sono stato 2 mesi fa e c'era la lì. Cambiano rometto, ma guardi che, perché già ho fatto la visita cardiologica, guardi che si sono trasferiti, non ci sono più, ma è sicuro. Provi a vedere, però io so che è così. Sono andato ed era così veramente, sono salito a Rizzetto e non mi hanno fatto manco in trappo. Adesso vuole che io faccia l'analisi del sangue, le urine e poi rimandi i referti, le rimandi via i miti. Che è quello mio padre, ha detto, Gentilini. Questa storia della via i miti a me mi rompe un bel le scatole qua, io voglio parlare con la persona. A me rompe le scatole, ma così purtroppo. Tutto Rizzetto, ma anche ce ne sono anche a San Camillo, perché Luca Fippore è a San Camillo, mi pare. Mio padre ha Rizzetto con Gentilini, è stato lì anche lui. Scappa, boh. E comunque adesso cerco a Rizzetto. Scusa un attimo. Va. Cristian, prendi il microfono. Cristian? Cristian, dove sei? Dove sono entrato? Io. Dove sei qui? Non è niente, ma vicino... vicino a... come posso dire? Vicino a mercato d'ingrosso. Ah, ho capito. Dove c'è Troccami? Esatto, lì vicino, dai. A Pigliacarri sei andato, no? No, non bevo io, non sono un alcolico. Ieri c'era tutto lo zimino, cazzo, se avessi avuto un posto a farmelo me l'avrei comprato, c'era bianco, rosso, tutto quanto, appena arrivato. Dici chi a casa da cucinare io? Ma in città non si può fare, bisogna andare in campagna a fare queste cose. Tu in campagna posso farlo ogni giorno. Vabbè, chi sa da Sassa di Vecchio lo faccio di Roma a te, se muovi in Brasile lo faccio di Roma a te. Io in campagna lo faccio ogni giorno, quando mi fa piacere faccio un bel di fuoco. In campagna così, uno cucina con la legna perché se non si sa che anche il pollo con la legna è più buono, è un'altra cosa. Con il fuoco sicuro, poi quando è da loro è ancora più buono. Quando è parito ti hai arrivato 4 kg, ti non metti la stessa. E a Milamento, ya, raggi una gana. Dai, che me la fumo fuori un attimino, dai. Ma fai un buon fratello, un buon fumo. A scroccare. Ah no. Eravamo in 4, ce l'avevo mangiato 1 kg barone, ma te ne immagini? 4 kg è bello, era, me l'avevo preso io dove lavoro, me l'aveva scelto di vitello, tenero, molto croccante, poi quella persona l'aveva fatto bene. E allora, noi l'avevamo preparato e duracotto, ma una, era un burro. Ma l'avevamo lavato noi proprio, cioè girato, pulito, no, con la carta straccia come fanno certi, a noi fa schifo. Infatti, era un burrito, era ben fatto. Io c'ho anche la graticola a casa elettrica di quelle grandi, però. Ma non lo so se esce bene di burro. Già esci bene, e poi cosa non esci bene? Perché elettrica, profumo lo zimino glielo dà la legna. Purtroppo. purtroppo se la più buttù va la più va tu io ma no che cosa in campagna già era di lusso, abbiamo fatto una veda gravigliata ma abbiamo fatto no. Se nel cammino l'avevamo cucinato, me lo ricordo bene. A chi ne rubare più un mare bene. Attiramente il suo scaldabagno proprio tagliato a midai. Ma vi ho fatto un barbecue, ma vi ho fatto una graviglia, tutto. E si puniva pure un rigoccio di bollo in chi vi ha cucinato. Già erano i poco buoni, a Ruccio. Uno che quando fa la roba rossa ti sana perché le scende tutto il grasso e non ti mangi il grasso ed è sano. E poi il sapore è tutta un'altra cosa. Infatti, fatta a Russia 9 euro che la baghia. Si sente il profumo, quello che abita nell'attico. Ci ha fatto una tettoia dove c'è il terrazzo, no, il terrazzo che è un bel grande, ci ha fatto una tettoia e l'ha chiuso. E ci ha fatto un barbecue, ha messo di quelli prefabbricati, ma si intende l'Uviago, il profumo non l'Uviago, del Zimino che hanno rubato. Io lo credo, è poco imbatto intanto l'Uviago del Zimino, mamma mia. E sono fatti con i mattoni refrattari, sono quelli prefabbricati, e ci metto un refrattario lì, si è proprio fatto apposta per fare i camini e quelle cose lì. C'ha praticamente lui l'ha chiuso tutto all'ultimo piano, grazie, sono venuti le gru a portarli quando l'ha chiuso, a portarli le cose, le travi di quelle grosse, ti dici chi vuole nei muri ferrovia, vedi chi di grossi. Figura. L'ha fatto bene l'avvocato questo qua, l'ha fatto bene il lavoro, ci ha messo tutte le vetrate, tutto quanto, tutto chiuso, perché dall'altra parte sono entrati dal tetto e hanno rubato tutto loro, tutta la roba che c'era alla signora che mi pare l'altro portone. Certo che l'ha chiuso anche per l'inverno lì, quando Edu cucina sempre in chivi, burusi più. Andiamo, vai, andiamo. Se avessi la finita, se non arrivare le noghie. Lo prezzo. Mi pare che era Bruno Luca, quando avevamo fatto lo Zimino già. Non era Luca, era il barbiere di Siviglia. No, mi pare che c'era anche Luca quando l'abbiamo fatto. Ma non c'era Luca, me lo ricordo bene io. C'era Alessandro, io, tu e le Rose, e poi è venuto tuo fratello a scoccare. Alessandro ha cucinato, ma Luca non c'era, tu chiedi dove. C'era Alessandro, il barbiere. E va più domande. Ma l'ha fatto bene, vedo croccante, l'ha cucinato bene, veramente. Ma io non c'ero, mi sa, non c'eri tu. Io me lo ricordo bene, c'era Alex, Alessandro, io, Natalino e poi c'è il fratello. Dove la fate? In campagna di Natalino, tanto non mi dà un cammino mando anch'io. No, non c'ero io. Ah, non c'eri. C'era Alex, lui si ricordava, c'era Alessandro. Ma una volta c'era anche Luca. Io non c'ero io. Boh, io ma come le ricordo, boh. E adesso per ricordarcelo dobbiamo farlo. Infatti. Vabbè, fatemi sistemare prima, poi vengo a mangiarlo pure io. Aspetta, l'altro giorno c'era andato fino al centro carne lì, che c'era tutto, e stava arrivando la roba, la stavano aprendo e mettendolo in esposizione. C'era bianco, rosso, fegato, cuore, reni, c'era primo latte, tutto grande. Certo. E uno è venuto e se l'ha preso 4 kg, si l'ha pigliato un chilo di lago, ogni cosa se l'ha preso un chilo. C'è quei chili in freezer io. Ma noi l'abbiamo messo in freezer, vero Natali? Perché io l'avevo preso il martedì e noi l'abbiamo fatta il sabato, mi ricordo. Ma c'era poco buono via. Perché l'ho appena macellato il giorno, ho capito che io l'ho preso e l'ho appena macellato, quindi l'abbiamo messo fresco in freezer. Poi chi su era dividete, era un burro, era troppo buono il suo sinistro. Ma l'ha detto anche un'altra volta, ce l'abbiamo fatta all'aperto con Antonio Graziano, il cugino di Viviana, tutti in greffa, ce l'abbiamo fatta all'aperto, abbiamo portato un barbecue di quelli grandi. E da poi la torre, il cugino di Viviana andava a zigzagare, me ne lo dimentico che si siamo in strada. Bisogna stare attenti. Ma hanno bevuto birra a fiumi, birra, io sì, posso bere, però arrivato a un certo punto dico basta, mi regolo, capito? E anche io sono così. Poi birra, vi. Cazzo, quando mangio un zimino vivo rubino, non la birra. Ma c'è la birra e il vino, per quello che si è ubriacati, perché hanno mischiato, c'è il vino anche buono. C'è il vino di Dorgali e vabbè ho tappigliato un masso e l'ha lanciato lontano poi a ultimo. Cristian, tu quanto ne mangi zimino? Molto? No, adesso non è dieta, non mangio più niente, ma mangio solo verdurine. Ma ci diamo il tentatore poco fa, è venuta la mia cioccolatino, perché era festa di innamorati, le ho regalato i cioccolati e ce li stiamo mangiando insieme. Io mi sono a dieta, mangio solo pasta con la carbonara, panna salmone, roba così leggera, dai. Già ci vuole, a me mi ha detto, l'unica cosa che mi ha detto, il cardiologo mi ha detto, devi camminare e fare un po' di dieta, mangiare di tutto ma razionato. Allora guarda, io per oggi mi sono fatto una bellezza di lavoro, più o meno 15.500 passi. Sì, ma che io vado col cane, me la faccio tutta la strada, la faccio via Bologna, poi salgo su verso il monte, faccio tutta la strada, poi giro via Prati, scendo giù, faccio tutto il giro, e posso di camminare con un cane. Ma solo che se cammini e poi mangi un bel, ti puttino a testa. Ma io mangio poco oltretutto, perché io sono abituato a mangiare quel tosto, di più non mangio. Lo sai cosa, non bisogna mangiare fuori pasto, purtroppo a me piace la salsiccia, piace il formaggio, mi ammazza a me che si gola. Sì, io fuori pasto non mangio, quello è poco ma sicuro, perché non c'è tempo di mangiare fuori pasto. Lucchetta, prendete il microfono. Una volta io e Natalina siamo andati a Piazza Lessini e c'erano due ragazzi che fanno il formaggio, finalmente Natalina, e ci abbiamo preso due forme di formaggio, erano 10 euro l'una, ma questo formaggio se l'aveva saputo me l'aveva abbiato 3 o 4 volte, ma buono, sapore proprio buono del latte si sentì. Posso immaginare, Natalina, riprendete il microfono. E io sono sempre propenso, se no vado, lo sai dove? La strada per andare a Usino, c'è uno che fa il formaggio, il pastore Serafino, quello che modulava. E chi mi Marco, quando era piccolo, siamo andati una volta a prendere il formaggio, gli ho detto, chi sei tu, pastore Serafino? E tu come lo sai? Se invece no, vado a Porto Torres a prendere il formaggio. Dove vai a Sorso? Porto Torres. A Porto Torres, e a chi a Porto Torres il formaggio va? Sì. E da chi va? Da un amico. Vabbè, no. A Porto Torres non ho mai sentito formaggio, sì. Lo farà qualche pastore che ci dica. Infatti c'è un pastore che fa formaggio lì, che siamo amici, che fa anche una raccolta buonissima anche. E anche quello di Osilo lo fa. Il formaggio di Osilo poi nominato, mi sono fatto a Russo, buono e buono. Ma io mi ho fatto la raccolta, lo ricompro. Salsiccia e formaggio, che è buonissimo. Io ricompro ricotta mustia, ricotta fresca per fare la pasta, formaggio, salsiccia, tutto gatto, vado. Ma poi questo qui non è bravo, anche ha besame suo, ha pecore, di tutto, ma voglio. Beh, non faremo più di mangiare, se non mi viene la fame, avanti Natalia. Eppure a me, che ancora non ho cenato. Avanti Luca. Via. Sì, comunque li fanno, c'è uno a Porto Torres che fa ricotta mustia, c'è, là ci sono. Che sappia io, non Porto Torres, nella Nurra sì, nella Nurra ti posso dare ragione, ma proprio a Porto Torres non so chi ci sia. Già, se no non è buona la bassacciuta con la ricotta da grattarmi, non quella mustia, chi sa proprio della grattarmi. Scusa un attimino che c'è il telefono, sta scusando. Ho già fa, ma l'ho ricercata, che per favore. Luca, mi prendi il microfono. Positivo, frate, dai, non ci stanno problemi. Lascia a vedere, che mi sa che sta stazione ci sono azzendi, no? Chi è? Scusa, c'è una faccia solaria. Eh sì, aspetta che controllo, va. Controllo. Stavo salendo. Stavo segnando a 3. Che cacchio? All'anima! E chi è questo con questo bippi? Cioè piccolo piccolino. A me sta dicendo. È piccolo. Senta, uno che c'ha il bip. Sì, lo sento pure io, ma è più bravo, ma è basso basso. Ah, qua arriva bene. Ho fatto le giocarsi in altre. E beh, va, non è fondo di più. Perché abbiamo mangiato una male. Mi serve giù io, va. E se ne freghi, lasci correre. Ma già non c'è problema. Non uso le mani, dai, così funghette. Lascia vedere un attimo, scusate. Un po' sono salite. A quanto? Lu, quanto c'è la stazionaria? Vabbè, sono 1,3, dai. Aspetta, sono accettabile. Siamo 1,5 accettabile, dai. Sembra così, ma l'acqua è maledetta, eh. L'acqua è maledetta, se vedi, adesso sono di meno, va. Aspetta. Adesso sono 1,1. Se di là ha messo l'acqua maledetta, però ci vuole per fare l'acqua. Tu dove sei qui adesso? La mia è vicino a Vestis. Vicino a? Vestis, quello che è l'ex Pritti, c'è presente? Ex vicino a Pritti. No. Vicino a Pritti, a Pedanieta. Vicino al mercato? Esatto, c'è la casa d'ingrosso. Ah, ho capito, sì. Adesso c'è pure l'officina, sta facendo qualche cosa, sono demolita. Pagappa, sì, lascia vedere. Aspetta un attimino. Fai. Eccomi qua, Gianni ci sei? Prendi. Però lui cambiata un po' di faccia. Ciao, e me, Crizia. Salve bombolino, tutto a posto, sì. No, tutto a posto, niente in ordine. Pure no, che va tranquillo. Cappa, cappa. Aspetta che mi lega pure il pantalone, un po' più di roba. Oi, oi, oi, cazzo, che tutto strano. E io, dico tutto a posto, sto volando, salvami e basta. E ecco, si muore di nai così me. Ci devi caso, non ti pare, ma allora, e a chi cosa è successo quello per te pare? Cosa c'è la barca? Cosa? Dicono che sta bene a casa, ma ne sta te. C'è tanto obiettivo, cioè dove hai uscito. Ma che birra fresca, ma stare a fresco. Tanto. E beh, già lo grido via. Ha fatto un freddo oggi, Ha detto che ce n'è la temperatura. Ha fatto freddo. Ma se tieni in mare, no? Mi sono pigiamato! È così, la vita è questa! Sono pigiama! Fatto freddo, ma non stiamo vendendo le bombole! Ehi, Cristo, io tengo la finestra aperta in camera mia, non la chiudo! Tutto l'inverno! Però io tengo la finestra aperta! C'è un mio figlio che si è fatto la finestra di notte! Tuo figlio? Se scendi i mari, Cristo! Gattino, un blu di Russia. Ma cosa è tanto? Scarica, ti la scarica. Sei più lungo. E tutto... Adesso come? Lasciami da cazzo il microfono. Adesso? Migliorato. A base non mi trovo con la te il microfono, Abbiamo preso di mazzetta. E adesso? Luca, come sta uscendo? Adesso bene, aspetta due secondi che devo rispondere a un messaggio. Ehi, Luca. Eia. Cappa, è così che... C'era una bella greppa oggi, così Sì, sì, una bella greffetta. Cappa, cappa. Ui, ui. C'è un attacco qui di più minore, va. Ui, ui. Luca, ho un gattino piccolino, sono di 4 anni e di 4 kg, ti va bene? Cazzo, c'è 4 kg. Mi sembrano in foro, una riva. È un blu di Russia, è bellissimo. Aspetta un attimino che mi stavo mandando un messaggio, un attimo. Fai. Luca, mi senti con questo? La voglia. L'Intec. Aspetta un attimo, mi sta chiedendo roba, Sara. Eccomi. Tamburino, ripeto il microfonino. Ciao, vabbè, allora. Bene, ti arrivo questo apparecchio. Benissimo, non è male, bene. Scappa, pure questo va utilizzato, se no si guarda. Tutto è utilizzato, tutto. Come vuoi sa? Eia, non stavo rispondendo a Sara. Cappa. Oia, cazzo, un po' che non accendo l'altro. Non provo la... il piede. Accendo l'alimentatore, voglio provare. In che zona sei, Luca? Ok. Sta per fuori adesso. Sto cuore, vediamo un po'. Sì, ma prima eri uscita Sant'Orsola, perché ti ho visto, tuo suonato non mi ha neanche cagato. Ui, Tino, tu sei. Ehi, accianto, a Crisia sto dicendo. E quando? Un'oretta fa, dai. Invece che non sono a pensione sicuramente, guarda. Avevo lo stilo l'acciaio. Lo sai che se lo tiro sono incoglionito, puoi mettere il coglione anche io, Cosa, Cri? Mi sta chiedendo il coglionello. Sì, ti sento male, dai. Aspetta, adesso che ci sta rincoglionendo pure lui. Già lo so. Oh, guarda a vedere se mi sentite. Bello. Capa, con l'antenna piccola sono. Che attenuo, ragazzi. No, si attenuando non rimbalzi nulla nemmanco. Ma Santiago quasi 8 semi da me. Ma veramente, sono con la Storm 27 sono. Sì, sì, sì. Vabbè, io sto parlando col bracchinetto, con quello piccolo, con l'Intec. Capa, Storm 27, come ti dici? L'Intec, 520 flux. Andavè, già va bene. Capa, è così come passa. Vabbè, qua adesso sì, quasi 9:10. No, è logico che cambia, Kappa. Ma già va bene anche con Cristian, tu mi senti? Benissimo, ti sento io. Kappa, sono con l'antenna piccolina. Kappa, dai, usiamo l'altra. Cioè, attenuato questa cosa, c'è per fondo scala. Il sugrezzo mio. Ola. Dino, dove l'hai visto oggi? Aspetta che era una bassa. Visto così, nel caso che già funziona anche quella piccola. Sì, anche bella. Questa è la grande adesso. Vabbè, la grande è la grande, la piccola. Però nel caso già pianta, bruissa. Vedete c'è cosa? Ordinare pure, adesso la arriva troppo. Puglia. Ma poi vediamo se c'è un falla, chissà. Guarda ancora, sì. Oni, se mi costa ieri, era fatto un piatto doccia, che cosa, hai idea cosa vuol dire? Che cosa, un piatto doccia? Due mesi per un evento. Beh, se non lo sappiate, lo piatta subito. Il problema sai cosa è? A fare il peso, a fare il peso. Se non ce la fai in uno, lo fai in due, perché quelli se si rompono sono cavoli tuoi. Allora, uno tre bassone uno lo paghisco, tre o tre bassone, anche peso da 2 tonnellate. Cos'è, quello grande? Quella grande ceramica, sai tu pesa, tu non c'hai idea. Quanto è? Chi ci mette la giacca da solo io? No, quello ce l'ho fatto da solo, non ce l'ho fatta io. Non me l'ha fatto chi, fidati. Ma proponente se io cosa. Sai quello, quanto è grande? 2 metri per 120. Ah, il mio era più piccolo. Perfetto, la metà di 2 metri per 120. Povero muratore, se è il suo, questi anni. Poveraccio. Quello va fatto in due almeno. Piano piano. E buono, in 3 se ti fidi, stai tranquillo. Se vai bozza in due già ve la fai. No, l'ho fatto io, e me sono forti, sono forti di forza. Se la prendi una matta pure a me, figurati, sono alzato un pochettino. La matta ne è varia. Ascolta, i tipi spendono, pugno una roba costosa, roba buona. Poi proprio per fuori che devo piazzare. Vabbè, alla fine qualcosa bisogna fare. E cosa va? In 2 o 3 ti dà attriti per ubbiattriti, piano piano. Come c'è un'altra punta? Io la mettiamo sul camion e poi ce la già niente. Ah, così è. Te lo porterò a piazzare. Sì, noi carichiamo col muletto sul camion e poi ce la già loro. Ah, e se va un muletto allora già non c'è problema. Che altro di Napoli? Ne so niente, ma che perché si trova niente? Ragione che crede. Ah, ecco. Cos'è, non mi ricordo il TPI. Ma da R. Io l'ho fatta sotto la macchina con lui dentro. Non ho capito. Ha avuto un incidente in macchina, io ho fracassato la macchina con lui dentro. Ma va. Io l'ho preso da dietro e piano giro, piano giro la macchina come una trottola. Sovvia. Purtroppo l'ha vista, ma quando rientravo si non si sa se cadono neanche, figurati. Dove è chiuso? Oh, operaio, un magazzinere che c'è lì. E ci sono gatti. Cosa vuoi fare? Scusa, mi ha trovato e basta. Non mi ricordo chi è, ma chi è R. Ceramica, no? Esatto, R. Ceramica e Creto. Adesso c'è una cosa, niente a ce l'hanno. Infatti, io non voglio vedere niente, infatti. Avrà via Narumonti un periodo, mi pare. Della teoretta, della termoidraulica. E quella è la termoidraulica, giù vengono le ceramiche, mi pare. Ho fatto un po' di tutto. Non mi ricordo adesso. Ceramiche, bagni, tutto quello che comporta bagni, ceramica, pavimenti, tutto quello è la termoidraulica, tutto quello che comporta, pompe di calore, tutto quanto. Capito. Vabbè, dai, se non altro è un lavoro, cioè. Per adesso, dai, poi quando non ce n'è, faccia. Capa. Se non altro vado un travaglio e qualcosa la settimana ce l'hai. Cazzo, è peggio quando non ce n'è. Qualcosa la settimana, la ragione è male come fa, va, non me posso lamentare. Capa. Ah, Marco, di non andare a casa soddisfatto, grazie, cioè, vai. Tesoro di na. E vende molto, mierda. Parecchio. C'hanno anche la termoidraulica ancora, sì? Sì, c'è sempre, è sempre in termoidraulica. Deve sempre la pedaliera adesso. È un bel grande. Sì, è grande, già c'ha di tutto di più quello che serve. Scappa, è uno dei più forti vendendo questa roba qua. Da voi è un isolato, ma è lui forse il più fornito. Vecchio Gussi mi pare. Sicuramente, come si dice, sicuramente fornisce. Ma fornisce mezza. Fornisce anche i paesi, fornisce. E che comprin come e se sono stati tagliati un po' le cose, se no avrebbe lavorato molto di più. Non sai cos'è, che bene o male lui fa molti cantieri di palazzine, di termoidraulica e riesce a smuovere meglio materiale. Che già anche l'altro con pavimenti, roba così, così seria, già riesce a guadagnare abbastanza. Ma che ragazza c'hai in macchina? Sì, un'amica con un ragazzo. Ah, ecco, sentivo genere. No, ma è buono comunque, no? Caspita, va bene. Dico a me che magari taglia molto lavoro, se no avrebbe lavorato un bel. Ma sai così di bricco, ma sì, taglia un po' di lavoro, poi il materiale è scadente, però il materiale tutti rimangono sempre da R, perché perché la torre è sottodimensionato, tubi sottodimensionati, capito? C'è una roba che tu hai sottodimensionata di quello che doveva essere in origine. Sì, a Milano i buoni chiama lassù, ci sono i ribaghi come terra, ribaghi. A fin fine la gente conosce R e vuole comprare da R, tutto lì il discorso. Perché la roba buona la paghi. Una roba che ti duri, come posso dire, tipo devo fare un bagno e ti duri 10-20 anni, stai lì, se vuoi mai ti duri 5-6 anni, per la Bricoman. Però io ho visto, siccome me ne intendo, ho visto che i sanitari ce li hanno, però costano quante erre, capito? Non è che si ne mancano. Alla fine la gente conosce lui e va da lui, preferisce andare da lui, capito? Tutto lì è il discorso. Lì come ci vanno perché molte volte magari alla presa, compresi. Sì, guarda, a me sono da pompare il porto e l'ho preso lui direttamente, non è che sono da brico ma prendo, ho chiesto lì, insomma pompare il porto, lì prenditela e poi ci pensiamo come pagarla, non c'è problema. Ve ne so pure c'è anche il restante, e ciò che vendono sanitari buoni, dettori, viaggiaroni, se ce n'è qualcun altro, chi può se non rivende i sanitari buoni, non so se li conosce. Sì che li conosco, perché la Vignoli, com'è la cosa sanitaria, curda? Sì, ma ce ne sono tanti che vendono sanitari buoni. Sì, non lui, Castadio già si difende, non c'è problema. Ci usano sanitari buoni. Qui come già lo sai come te. Sì, lo so come brinco, ma è una roba. È una roba più un po' meno cara, ma alle volte, dai. Lì com'è così, c'ha il prezzo più caro che Viraghito e poi c'è la roba più economica, va pure cineseria, va. Però dipende cosa vuoi spendere tu. Sì, anche lì c'è la roba che costa meno cara e costa più di più, cioè dipende da cosa vuoi tu, perché non vendi da 40 euro e spendi anche 100 euro, ma capito? Siamo lì il discorso. Ma i migliori rubinetti che abbia mai avuto sono quei rubinetti di Italia. Dove ce l'hanno? A Volga. L'altro, i cinesi bisogna stare attenti, chi si barra subito. È così la vita, caro. Ah, va so, pensamente vendere i ciuffi cinesi. Ti sento basso adesso, ti sento bassino adesso, adesso no, che vuoi il QRM? Mi senti adesso? No, aspetta, aspetta un po' che esco dalla Bagraziella, che c'è, ci sono le macchinette che fanno QRM per poco di calore. Ma io ho pochissima potenza, no, non sto spingendo. Vabbè, io scendo nei sei. Sì, un attimino, insomma, ho trovato davanti che per poco non me lo lasciava la macchina, un bastardo. Cornuto, cara. Sì, sono un bastardo. Sì, uia, per carità. Uia, dove sei arrivato? Aspettate, di casa, tra poco, QRT assoluto. Gappa, dai, ciao, Chris. Ce la risentiamo. Dai, ciao, perché l'ultimo è un buon lavoro per domani, dai. Ciao, sì. Uno, due, tre, prova 10, prova barattino. C'è nessuno sul canale 10? Ciao Fabri, tutto buono. Ciao Luca, ben sentito. Provando un baracchinetto che ho messo a posto. Ascolto benissimo, ciao Fabri, benissimo. Di quelli micro, di quelli piccolini da mettere nascosti sotto il braccio. Sì, di lusso, sta facendo bene. Perfetto, e beh, quella roba sempre andando bene? Sì Fabri, devo salire a tarare l'antenna, capito? Beh, va benissimo, non bene, benissimo. E come nuova comunque, che altri 15 anni se gli avessi il grasso e tutte le cose ti fa altri 20 anni. Ascolta, come sono le stazionarie? Dimmi un po' di valori sui vari canali. Allora, canale 1, 1 e 1, canale 10, 1 e 2, canale 20 sale 1 e 3 quasi, canale 40, 1 e 5, nel canale 45, 1 e 7, 1 e 7, 1 e 8. Allora, fammi ragionare, quindi salendo praticamente ci salgono le stazionari, quindi l'antenna è lunga, dovresti sicuramente provare, se è lunga l'antenna devi sollevare leggermente la molla sicuramente. Sollevarla o abbassarla? No, sollevarla, perché sollevando credo che accorci l'antenna e quindi fisicamente sì, sollevandola così, la logica sollevandola, non te lo do al 100%, ma sollevandola la accorci l'antenna, quindi sollevarla, devi sollevare. Infatti, come l'hai messa tu, io l'ho sollevata poco, prima di finire il tutto, poi sono sceso qua, ho visto che c'era 1-1 nel canale 10, sono rimasto, non ho fatto altri giri, capito? Se no l'avrei mancato sollevata, avrei fatto altri tentativi, magari sollevandola ancora un altro po'. Sì, la devi sollevare un altro po', però 1 e 3 non sono stazionarie. Vabbè Fabri, siccome devo mettere anche un piccolo aiutino e poi mi salgo ancora di più. Vabbè, prova a sollevarla e a parare leggermente, però quindi già sta andando bene, dai, mi fa piacere. Sì, alla grande Fabri, super lavoro, poi vabbè. Adesso mi viene bene anche da solo abbassarla, ho i pali, cioè abbiamo fatto il palo telescopico e va benissimo. Sì, allora vabbè, te la bacio un attimino e tanto adesso è tutto in inox su quella lì, gli dai lo svitti leggermente, lo porti sopra, fagli un dito e poi lo chiudi e poi riprovi, anche con l'antenna bassa, senza sollevare il palo. Infatti cosa faccio? Mi porto un pannarello su, ma la segno dove adesso la sollevo poco, poi riscendo. Tanto già mi è facile farlo, dai. Se no viene questo mio amico, c'ha l'analizzatore per trarre l'antenna. Però ne vale la pena per quello, ce l'ho anche io al limite. Ma non ne vale la pena, fai anche da solo e te ne freghi, con lo strumentino in stazione va benissimo, non è un'antenna che stai costruendo, devi controllare, l'antenna va e quelle lì, vedi il rientro, vedi tu, comunque credo che devi sollevare. Io la sollevo, se vedo che mi salgo la abbasso. Bravo, non è che c'è molto da fare, maschio e femmina. Allora, dai, che giù. Va bene, dai, dici che spengo tutto, che lo metto via anche quest'altro baracchinetto, va? Sì, va bene, Fabri, di lusso, va benissimo. Va bene, ciao, buonanotte, grazie Luca. Sì, ciao Fabri, buonanotte anche a te, ciao.